abbiamo fatto fatica a smollarli, cioè smollandoli si sono tutti spaccati, per quello che io li ho messi in alluminio, perché erano tutti quanti, diciamo, petrificati, perché il vetro sembra, non ha il vetro, non c'è avuto quanto che non ha il vetro, adesso sa come. Sì, sì, avanti Sandro. Vabbè dai, io vi lascio, stavo ultimando una cosetta. Ricominciamo a mettere in linea per domani, dai. Vi lascio, rimango in ascolto da parte mia. Ciao Gianluca, ciao Gianni, alle prossime. Ehi, ciao Sara, dai, lasciamo qua, non c'è problema. Avanti Gianni. Ciao Sandro, ci sentiamo, siamo qua, se vuoi rientrare non c'è problema. E allora Gianluca, e te mi conta, sei uscito o sei stavano? Ehi, sono uscito e sono rientrato in muro. Davvero? Dove c'è andata? Ehi, andata, ancora no? Oh, sì, una fascia. La parte lavorativa è andata. Oggi e stasera c'è la parte divertimento, dai. Caragallo. Stamattina non c'era nessuno, c'era uno, stava facendo ascolto, 7000 qualche cosa. C'era uno che si metteva a voce, diceva arrendetevi l'Italia, non so che cosa, cazzo non mi ha voluto, io dico che era esaurito questo qua, non è possibile, c'era una roba strana, gli ammalati di mente, non so che cosa, dovete proteggervi, arrendetevi. Alleluia, cosa vi fa già, arriva. Stamattina c'era anche una bella giornata, nonostante tutto sembrava chissà come, la temperatura era abbastanza stabile, però adesso lì, proprio verso mezzogiorno e mezzo, l'una, lì, era dura da girarmi, stava nuovamente annuvolando, ma già l'aveva messo che piove da notte, stasera diciamo, eravamo solo praticamente quando si la tira, la documenta, però ha messo cattivo tempo. Intanto faccio a mano. E come se io non l'avessi fatto, ma con l'ufficio? Con l'ufficio d'era? Ovvero. Cosa vuoi fare? Lasciamo fare a loro. Tanto io non potevo fare nulla con lo tempo. Allora vediamo. C'è la macchina di bianco, vediamo se c'è qualcosa. E qua a me viene un bel... Qua a me è propagazione, ti sto dicendo, guarda che io almeno da parte nostra... di quasi, che siamo a Porto Torres, che abbiamo tutta la parte della zona del mare, quindi campo libero, a voi la viene a Curine, a carrette. Ma l'estate è pure la propagazione anche su Puglione, no? Io ti vado a venire l'emicrania, se non va un corrispondente di chi per residenza direttamente lo squelce. Fattore giusti, purtroppo. Noi, che fai a Capagussi, ma pure invece? Io mi ricordo che una volta ho parlato da Porto Torres, sì, non ho un bel pezzo per arrivare a Sassari con un turco. Con uno? Con un turco, uno della Turchia. Ah, ho capito. Via da te. La macchina è tranquillo, c'era un po' di propagazione, arrivava a 9 ragazzi, 9 arrivava. Questo se ne era tanto lontano, anche ieri c'erano le Canarie, non le Canarie, sì, Elena, devi dire le Canarie, sì. E... c'era una propagazione, stavamo parlando di Massimiliano. Ieri sera c'era Massimiliano e cosa è... Quando voi siete tutti andati, praticamente, siamo arrivati io e Massimiliano. E poi ci siamo salutati, abbiamo girato e siamo andati in un altro canale, ed era tutto per le propagazioni, di cose, di... le Tenerife, non le canali, le Tenerife. La mia sentita è Elena, le Tenerife. Sì, molte volte ci arrivo anche dalla macchina. Si chiama questo passero, una cosa del genere, è un nome di un uccello, questo qua che è modulo. Vidriazzi, da Monterraso, da lì ho modulato con un film. Sì. questo non vuol dire, io la sciascia che può dire a volte non lo scelto, sì, mi pare una volta, però magari che c'è il barco libero, la pista, io mi trovo qualche cosa da guardare, tipo un palazzo, una cosa, e ti blocca. Io però me la sciascia l'ho sentito, infatti mi sono anche spostato il canale perché non riuscivo a sentire nulla, ce n'era anche qua, ce n'era anche altro, più di oggi ce n'era, magari adesso ha invertito le cose, è venuto più da voi oggi e ieri era di meno. Quella. questa qui a 6 giorni no, passava a spingere la spinta con i piedi questo qua per prendere la bandierina, invece lui a lei è andata a prendere la bandierina, si è sganciato il sedile, o si è fasciato, cosa ne so, con un ganzo, ci è uscita dritta, ma l'hanno chiamato l'ambulanza, ce l'ha fatta l'ambulanza, però non so se si è accampata o no, l'ha messa un bel male. Bene, già faccio quel REM qua, non nulla allucinanti. E che cosa ho già detto? La problema è che la vieni qua, questa è la cosa che mi ricordo. Sì, dove c'è la prettura? Bravo. Tanto sono già Gianni, già fa. Tanto io non so dove ero da 20 anni, sono pure di più. Quanto? 20 anni, forse di 34. Sì, 33. Cipracco, ve lo ricorda? Poi sta che Rubio, Salvatore, ve lo ricordo. ricordate la mente. A casa, spostavo dopo scontro, stavo agli scivolanti, cose da vigitture di scivolanti, sono stata una ruota panoramica da sola, signor Albertino me l'aveva data e io incassavo e la facevo andare e mi pagava a giornata. Vicino così lascialo fare, quando mandano la gente lascialo fare, tu ti metti in mezzo e cavolo non ti vedo, è via da botte. Comunque Ignazio, la Befana, gli sughi, vabbè, è a casa del riposo, ma ci ha messo male anche Ignazio. Quello lì l'avevano abbassato i pantaloni, l'avevano passato tutto il palco dell'autoscontro davanti, lo tenevano in quattro. Un palco davanti l'ha ribusso, l'ha abbassato montando i pantaloni e l'ha ribusso tutto un palco bianco. L'avevano saputo, lo chiamavano Scarpantibus, la Befana, Scarpantibus perché quando si usava negli schivolanti ci vediamo le prime rivolte da Buglietto. Thank you. quello che lui da fare fa il picco. Vabbè, era già grandetta, no? Direttamente 11 alfa. e poi ho fatto due, certo male, ho capito male, volevo dire 12 e ho capito male. C'era questo 12 e non c'era 14, c'era la sua di no. Il discorso è questo, 0,95, 27,095 è l'11 alfa. E non c'entra nulla la cosa, lo so. È che praticamente non avevo capito se 11 o 12 alfa. No, cioè, c'è l'11 alfa, cioè, c'è il 7 alfa, il 3 alfa, il... c'era il 22 dopo, comunque io già ce li ho tutti scritti, se non mi ricordo bene, il 23 forse, qualche cosa del genere. Sono 5 o 6, mi sembra, 7 canali nella, in questa fase qua, diciamo, capito, le 40 canali. Vabbè, comunque non ci siamo capiti, io come l'ho detto mi sono spostato subito sull'11. Poi ho detto forse ho capito male di io, ho detto 12, senza pensare che non vive, non mi ricordavo più, in casa mia forse da qualche giorno che si sono trattati, minimo 30 anni. E ci do io, vabbè, raramente, ma raramente abbiamo fatto qualche cosa sia. E comunque si prende la munitiva, si vuole dire, vabbè si riesce a cosa, la base di Matteo, sì, così che te ne arrivi in questa casa di burro in attacchive, è poco di fa. Dugna lungo per le propagazioni. Come ti verrà per le radio per le burrasche, diciamo, per poco di fa. E vabbè, ma sono canali che usano meno, là, Gemma. Cioè, li usano meno. Là, io li ho usati da poco con voi, perché mi pare proprio l'altro giorno, perché era una vita che non usavo più canali alfa. Allora mi ricordo si usavano, quando mettevano la portante, non erano tutti che ce l'avevano, allora via negli alfa. E gli alfa, ok. Un attimino da che mi cambio già, un secondo. Si vada tranquillo. Gian Paolo, fatti sentire. Allora, ti ho avvisato in lui. Tu è sicuramente un turco questo qua che sta parlando. Perché parla con i turchi, va. Ma... E ho sentito che ha detto, certo, non mi senti parla con Gianluca, ma non è che ti sento Gian Paolo, non è sempre. Sì, questo è vero. Adesso con che apparato sto uscendo già un po'. Oggi con Brasile sto uscendo e il microfono, una radio di qua. Al massimo ce l'hai già un po', mica si può aumentare. E già è forte la radio, non è che c'è problema, ma se è forte. Caspita, sente bene, poi a tutti si addice molto. Fatto bene, eh? E poi aveva lo stesso attacco del gas, e provate subito a funzionare, no? Invece un capo nuovo, l'unica bici che lo cavo che la bici non è avvero. Se invece un capo nuovo lì è di uso, poi ce l'ho restaurato, ce l'ho messo a posto là. Poi è meglio metterlo nuovo direttamente. Ma basta di là. L'unica cosa era quella lì, diciamo. Grosso così gliel'ha messo, uguale. Ha fatto bene. E io lo dovevo ordinare, se lo trovavo così grosso, poi non lo stavo usando, e vabbè, lasciamo fare, tanto sono sempre di là, lampade, cose, l'avevo voluto mettere in sesto, però non l'ho trovato così grosso. E in modo che se ti vuoi allontanare c'è il cavo lungo e tutto quanto, ho capito, e l'ha registrato. Sono ritratto, eh? Giù mi la lingua già parla che mi sei grogliolata. Ho capito che mi devi assaggiare. Ma giù dico, giù mi la lingua già parla che mi sei grogliolata. E cosa la prendi? Doveva dire, l'ha precisato per la tua scelta. Allora, allora, se no, dopo... Lo dico il memo, capare, se non lo spero un tiro. Vabbè, sono passati 3 minuti di tempo, già qua, la faccio bene. Vedi, questa cosa è bella presente. Quale? Questa. Quella tua? Questa tua. Potresti usarla adesso io? E io. Questo è sempre quel salvare, Gianni, con un paracchinetto, Queste qui sono le condizioni, questa qua. Un Intec con lo Stalker. Stalker è... no, beh, dai, diciamo così. Sempre quello che ti avevo detto io, americano, sai. Molto carino come baracchino, Veramente una bella radio, sembra uno stereo delle macchine tipo quelle americane anni 60, no? Tipo Cadillac, cose del genere. Ma ho capito com'è. Forte. Quindi è d'epoca quello lì. Non lo so se ma se tu lo vedi è fiammante, eh? Non ho un graffio di ruta nel frontalino, nelle tasche, nei capelli, nelle coperti, nulla, nulla, nulla, proprio guarda, lindo. E c'è bene, niente da dire. Veramente chi me l'hai dato, non me l'hai venduto, mi pare che me l'hai regalato, mi ha dato, non ammetto cosa abbiamo fatto, una sciabitura, non ammetto niente, una cosa di niente abbiamo fatto, me l'ha miserato un po' che parole, formidabile, la città quello che faccio io Mattesi, che dove non tratto mai, Gianni, la giura anche Mattesi, no, lo coso, lo toccai Mattesi, me l'ha dato, ecco, me l'ha dato. C'è qualcuno che chiama con la sottofondo, avanti. Mi ha ricordato, non sei tu il padre della vicerata, diciamo, ma chi sei tu? Non te ne parla a quali? Ora c'è chi non è. No, forse no. Io mi metto questi Ragus e Petros, te ne ricordi? No, padre, non te ne parlo. No, c'è chi vuole se non me lo ricordo, la verità. Non dico bugie, non me lo ricordo. Allora, magari c'ho anche parlato, poi non me lo ricordo, sono passati un po' di anni. Da chi? Neanche io ne ho conosciuto tanti, sì, Giordano lo sentivo. E poi sentivo a Cristal che murmurava da Montedogna, poi c'era anche un altro di Alghero, lo stesso, che usciva in barca, che sentivo. Un po' di Giordano me ne ricordo, c'era Puma. No, di Giordano me ne ricordo uno di Alghero che murmurava, ma non... ma per l'altro no. Thank you. situazione, il terreno che devono pagare, non è così, no, ci sono spese anche. Ci sono i guadagni, ma anche le spese, prima che ce li dati più di guadagni, anche non mi guadagna un bene, state, cazzo. Se stiamo in tutto rimani a bissa. Ci sono turisti, capito? Non vado qui nel posto, ma ci vanno i turisti tedeschi, inglesi, di tutto, vanno, riempiono la giostra in una maniera pazzesca, guarda. Addirittura ho visto, c'erano queste ragazze, queste turiste, ci hanno portato le scarpe per andare con l'affare che era tutto lo bauma. Si sono ricavati i rivolti, i battisti del quiglio. E comunque qualcuno di quattro non ce l'ha il baracchino, No, ce li hanno, lo so di sicuro io. Sono parti da Lisci a aggiustare, te lo sto dicendo, perché ci avevano degli apparecchi inutili, erano parti da Lisci. L'anno scorso, mi pare. Quindi mi hanno fatto da qualche altro del vecchio dell'autoscontro, Giampa, non lo sapevo. Il pittore lo vede Radio Matterman, Giampa. Perché io l'ho sentita, proprio perché ti sintonizzi, ascolti Radio Matterland, qui Radio Matterland, il parco dei divertimenti, ti dico, fa la pubblicità di tuo gatto. Faccio un riposino poi, non potevo più tardi, là, caccia, vado a...